il falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò e ti avrò. In questi mesi abbiamo parlato spessissimo di grandi artisti che hanno cambiato magari la storia della musica, e naturalmente per essere un grande artista devono verificarsi una serie di condizioni. Una di queste è quella di avere dietro di sé o comunque al proprio fianco un grande pubblico. Un artista è tale al giorno d'oggi se ha un grande pubblico e ha delle persone che lavorano bene per lui. Ecco, noi vogliamo dedicare la puntata di oggi proprio a una persona che è stata tutta la vita dietro alle quinte e che è stata un asse di congiunzione tra la più grande band della storia della musica, cioè i Beatles, e i milioni di fan. Stiamo parlando di Frida Kelly, la segretaria dei Beatles, quella che ha gestito il loro fan club per 11 anni e che in qualche modo anche lei ha contribuito a creare la Beatlemania. A lot of people didn't take these girls seriously. Molte persone non prendevano sul serio tutte queste ragazze, ma io sì, perché ero stata una di loro, una fan come loro, e quindi sapevo cosa provavano. So I knew where they were coming from. In tutti gli anni che Frida ha lavorato per i Beatles, ogni singola ammiratrice della band ha avuto la gioia di ricevere una risposta alle proprie domande. Se le richieste andavano oltre l'autografo, Frida cercava sempre comunque di esaudire quei desideri, gli innocenti desideri di ragazzi che più o meno avevano la sua stessa età. Lei rispondeva a tutti, anche alle domande più assurde, almeno all'inizio naturalmente. Il genere di richieste che facevano i ragazzi nelle loro lettere erano tipo: posso avere un pezzetto della camicia di Paul? O se vi mando una mappa, potete chiedere a Paul di venire a casa mia verso le 6? Perché do una piccola festa e mi piacerebbe se lui potesse partecipare. Beh, le richieste che ti arrivano per lettera un tempo e oggi via social sono ovviamente assurde. Ogni personaggio che faccia il mio lavoro potrebbe raccontare tantissimi aneddoti, ti chiedono qualsiasi cosa, le cose più strane, e in ogni caso insomma stiamo parlando dei Beatles, e quindi tutto ciò va moltiplicato all'ennesima potenza. Lei ha sempre dimostrato un grande impegno, Frida Kelly, nel suo lavoro. Questa è una delle tante ragioni per cui i Beatles l'hanno così tanto amata. Per esempio, i Beatles non concedono quasi mai i diritti delle loro canzoni. Se lo fanno, come è successo quando hanno dato la canzone Tomorrow Never Knows per un episodio di una serie TV, si fanno pagare tantissimo. Bene, quando il giovane regista Ryan White ha realizzato il documentario Good Old Frida sulla storia di Frida Kelly, un film che peraltro vi consiglio di guardare, McCartney e Ringo Starr hanno concesso 4 canzoni originali a un prezzo irrisorio, anzi si mormora che lui le abbia addirittura potute usare gratis, e questo solo per amore di colei che era stata al loro fianco dagli inizi, Frida Kelly. I'm George Harrison. Nobody else has said anything yet about our secretary, Frida Kelly in Liverpool. Get out, Frida! So on behalf of us all, I'd just like to say a great big thank you. Frida Kelly nasce a Liverpool proprio come i Beatles durante la Seconda Guerra Mondiale, come loro, e come loro è figlia della piccola borghesia di provincia. Peraltro è orfana di madre come John e Paul. Forse proprio tutte queste radici comuni creano un legame di complicità tra di loro. E di certo lei è una delle tante ragazze che vanno ad ascoltare i Beatles al loro esordio nel famoso club The Cavern. Un giorno due ragazzi che lavoravano al piano sopra il mio vennero alla mia scrivania e mi dissero: dai Frida, ti portiamo fuori a pranzo. Non sapevo dove mi stessero portando e finimmo al Cavern. Non c'ero mai stata prima. Era una cantina, aveva questo odore particolare. Non c'era ventilazione, spesso la toilette era intasata ed era vicino al mercato. Quindi aveva questo odore, un misto fra disinfettante, frutta marcia e cose così. Disinfectant, rotten fruit. I Beatles all'epoca non hanno ancora 20 anni e sono poco più grandi di Frida. Suonano tutti i giorni al Cavern, sono bravi, sono simpatici, sono disponibili, sono nuovi, non hanno niente a che fare con i gruppi che suonavano in giro in quegli anni. C'era un piccolo palco in legno e quando arrivai la prima volta i Beatles stavano suonando. Non avevo mai visto niente di simile. Tutto in loro era diverso. Il modo in cui si vestivano, tutto in pelle. Il modo in cui parlavano con il pubblico, come ballavano sul palcoscenico. E soprattutto la loro musica, diversa da tutto quello che avevo sentito. Ero talmente sorpresa da tutto che mi dissi: mi piace, domani ritorno. I'm gonna go tomorrow. E da quel giorno lei torna quasi tutti i giorni al Cavern. I Beatles non sono ancora famosi e quindi è facile andare a trovarli in camerino. I got to know them personally. Li ho conosciuti personalmente perché andavo nel loro camerino e parlavamo insieme. Quando finivano di suonare andavano a riposarsi lì e parlavano con chiunque andasse a trovarli. E stavamo tutti lì, seduti insieme. E io chiedevo cose come: dove altro suonate? O com'è andata ieri? Cose così. Insomma, lei diventa una presenza abituale nel camerino dei Beatles, che nel frattempo si stanno facendo un nome in città e la loro bravura, come sappiamo, come la storia ci ha raccontato, non rimarrà confinata entro le mura umide di questa cantina, perché il Cavern, io ci sono stato, è una cantina tra i frequentatori del Cavern, però c'è un'altra persona che ha notato i quattro ragazzi e che è capitato nel club per caso, un'altra persona molto importante perché si chiama Brian Epstein, è quello che propone ai Beatles di diventare loro manager e gli abbiamo dedicato una puntata qualche mese fa. Insomma, la collaborazione, come sappiamo, tra i Beatles e Epstein si rivela una delle più fruttuose della storia della musica moderna. Grazie a Epstein, anche Frida Kelly sta per trovare la sua grande occasione. Il falco e il gabbiano. Stiamo parlando di Frida Kelly, la segretaria dei Beatles, e l'abbiamo lasciata in una ex cantina trasformata in club, il Cavern, l'abbiamo lasciata a guardare questa band che stava per esplodere nel mondo e a conoscersi con Brian Epstein, quello che andrà dai Beatles dicendo: voi avete bisogno di un manager. Lei, Frida Kelly, è la donna che per tutti gli anni in cui i Beatles sono stati attivi ha gestito il loro mastodontico fan club, un lavoro che ha svolto sempre senza montarsi la testa, sono in pochi a sapere della sua esistenza, è sempre stata defilata, discreta, non ha ricavato nessun vantaggio personale da questa collaborazione, non si è arricchita. E ancora oggi, a quasi 70 anni, lavora come segretaria in uno studio legale. Ero solo una segretaria. E la cosa divertente è che sono ancora solo una segretaria. Infatti, a chi interessa la storia di una segretaria? Insomma, dipende, perché se la segretaria è la segretaria dei Beatles, allora interessa e anche molto. Lei ha gestito il rapporto tra i Beatles e lo sterminato gruppo dei fan, l'ha fatto senza tradire mai gli aspetti più privati della vita dei favolosi quattro, anzi è sempre riuscita a proteggerli dai pettegolezzi. You really want to say something? Vorresti raccontare qualcosa, muori dalla voglia di raccontare qualcosa ai tuoi amici. Ma lavori per una società che ti ha chiesto di non dire niente e tu hai dato la tua parola. You have given your word. Quando viene assunta, Frida ha solo 17 anni e in quegli anni la discrezione potrebbe non essere una cosa normale, invece lei è già pronta a fare il suo lavoro bene e viene assunta proprio lei. Beh, intanto perché nessuno può ancora immaginare quale sarebbe stato il punto di arrivo della più grande, come dire, multinazionale del rock. E poi lei comunque era amica di tutti e anche Epstein era abituato a incontrarla, per cui in qualche modo i Beatles, che in quel momento sono ancora un po' a gestione familiare, scelgono una loro amica. I got to know Brian Epstein through the Beatles. Ho conosciuto Brian Epstein grazie ai Beatles. Andavo a sentirli tutti i giorni e lo stesso faceva Epstein, e così siamo diventati amici. A Liverpool lo conoscevano tutti perché era il manager di NEMS, il più grande negozio di dischi dell'Inghilterra settentrionale. Un giorno Happy venne da me e mi disse che aveva firmato un contratto con i Beatles, che aveva bisogno di una segretaria, e mi chiese se avevo voglia di lavorare con loro. E io risposi, va bene, andiamo. Ed ero così eccitata di iniziare il mio nuovo lavoro, lavorare con i Beatles. E così Frida prende possesso del suo ufficio al NEMS, il negozio dei genitori di Epstein. In realtà per ora stiamo parlando di un piccolo sgabuzzino sopra il negozio, e lì inizia a fare quei lavori tipici della segretaria, cioè batte a macchina, prende appuntamenti. Presto però eredita un compito molto più delicato. Bobby Brown era un'altra ragazza che frequentava il Cavern e aveva cominciato ad occuparsi del fan club dei Beatles. All'inizio non capivo come mai avessero un fan club, visto che si trattava solo di una piccola band locale, ma alla fine cominciai ad aiutarla. Ma dopo un po' Bobby si mise con un ragazzo e perse interesse nel club, e quindi le subentrai io. So I took over from there. Insomma, come dice la stessa Frida, per ora i Beatles sono una piccola band conosciuti localmente, quindi per lei fare un fan club vuol dire, non so, far firmare qualche autografo, poca roba. Addirittura lei ingenuamente all'inizio dà l'indirizzo di casa sua come recapito per le lettere dei fan. Silly me, I gave out my home address. Fui così sciocca da dare il mio indirizzo di casa come indirizzo del fan club. Il postino bussò alla porta e mi disse, perché hai dato questo indirizzo? Sono arrivate 200 lettere. E io dissi, scusi, non lo farò più. E povero lui, in pochi mesi i Beatles divennero ancora più famosi e non si trattava più di 200 lettere. Arrivavano cesti interi e poi sacchi interi. E non finivano più. E il padre non è molto contento di venire sommerso da queste lettere. Soprattutto non ama per niente questi ragazzi vestiti coi giubbotti di pelle, coi jeans, che comunque creano un pugno in faccia a tutta una Inghilterra post-vittoriana e perbenista. Insomma, intanto le lettere da 200 al giorno diventano 3000 al giorno. E poi si trattava appunto dei Beatles. Quando dovetti dirgli del mio nuovo lavoro, scelsi l'ora del tè e lasciai cadere casualmente la notizia. Oh, lunedì inizio un nuovo lavoro. E ricordo che lui mi chiese, ha qualcosa a che fare con i Beatles? E io risposi solo con una smorfia, senza parlare, perché sapevo che non gli piacevano per niente. Lui non disse una parola, ma mi girò le spalle e poi sentii il rumore della teiera che si frantumava per terra. Il falco e il gabbiano. Stiamo parlando di una persona che non è mai stata famosa, una persona che non riconoscereste per strada e che forse neanche i fan dei Beatles avrebbero riconosciuto per strada, magari nel 65 o nel 66, perché stiamo parlando della loro segretaria, Frida Kelly, segretaria della band più famosa nel mondo di tutti i tempi. Ha avuto la fortuna, quando era 17enne, di incontrare sulla sua strada questi ragazzi che stavano cominciando e che, assieme a un manager di buone speranze che si chiamava Brian Epstein, hanno dato la scalata al mondo, e lei su quell'ascensore che saliva nel mondo c'era. E così non si limita a avere a che fare solo con loro, stringe un rapporto profondo anche con i parenti dei Beatles, perché spesso va a trovare dei genitori che da un momento all'altro si trovano con dei figli che vengono trasformati in icone e che probabilmente vedono sempre più raramente, quindi magari rimane a prendere il tè con loro, sfoglia gli album dei ricordi, insomma li aiuta a accettare meglio tutto quello che sta capitando. Il rapporto particolare lo stringe soprattutto con la madre di Ringo Starr, che per Frida rimane sempre Richie. Il rapporto tra lei e Elsie Starkley si trasforma in un rapporto importante, quasi come quello tra madre e figlia. Elsie, give me advice, motherly advice. Elsie mi dava tanti buoni consigli, consigli materni. Era molto gioviale, molto espansiva. Aveva una risata molto rumorosa. Avevo l'abitudine di raccontarle tutti i miei segreti quando ero adolescente. Forse mi considerava come la figlia che non aveva mai avuto. A un certo punto decise che non prendevo abbastanza soldi e a una festa incontrò Happy e gli disse: «Dovresti pagarla di più, non prende abbastanza, dalle un aumento». E due settimane dopo ebbe un aumento. Ma la madre di Ringo Starr non è la sola a conoscere il valore di Frida. Brian Epstein lo sa che è una segretaria discreta e efficiente come Frida vale un tesoro, non solo perché è una persona di fiducia, ma anche perché in quel periodo il lavoro diventa anche creativo, perché devi gestire la newsletter ufficiale dei Beatles, devi scrivere sul mensile dedicato al quartetto mantenendo un contatto costante con gli ammiratori. Before the days of the internet and Twitter and Facebook and everything. A quei tempi non esistevano internet, Twitter o Facebook e l'unico modo che avevamo per informare i fan era attraverso il Beatles Monthly. Mi facevo dare qualche piccola notizia dai loro genitori, qualche piccolo pettegolezzo, oppure chiedevo a loro direttamente cosa stessero facendo, qualche informazione succosa sui loro giri, e poi la scrivevo sulla newsletter che tenevo all'interno del Beatles Monthly. And I would put it in my newsletter that was in the Beatles Monthly. E lei è molto creativa nel suo lavoro, intraprendente, non risponde solo alle domande contenute nelle lettere degli ammiratori, perché il suo obiettivo è quello di soddisfare ogni desiderio dei suoi fan. E fa di tutto, non so, quando i Beatles vanno dal barbiere lei li segue per raccogliere da terra le ciocche da spedire ai fan, e va dalla mamma di Paul per farsi dare una vecchia camicia e tagliarne dei pezzetti che diventano delle reliquie da mandare per posta. Se un'ammiratrice le spedisce una federa per farci dormire sopra Ringo, lei si mette d'accordo con la mamma per riuscire nell'impresa. In fondo Frida è la prima a pensare che i Beatles possono rendere felici i loro fan. E forse sta in questo la grande differenza fra Frida e le persone che normalmente lavorano negli uffici stampa degli artisti, perché lei si identificava davvero con le ragazze e i ragazzi che scrivevano ai Beatles, perché lei per prima era stata una fan dei Beatles. L'unica differenza tra lei e gli altri era un po' di esperienza come segretaria e una certa aria che un po' da maestrina, che metteva tutto in riga, come ricorda Ben Kingsley dei Mercy Beats, un'altra band di Liverpool che suonava al Cavern. She just had this way about her. Aveva questo modo di fare, un po' come una maestra di scuola. E così come devi fare quello che ti dice la maestra, allo stesso modo dovevi fare quello che ti diceva Frida. Non perché dovessi farlo, anzi, ti sembrava quasi che volessi farlo. Perché quando ti chiedeva di fare qualcosa, con quel suo sorrisino, tu obbedivi. Eh sì, lei sapeva anche tenere la disciplina perfino all'apice della loro notorietà, e i Beatles dovevano fermarsi e firmare gli autografi così come voleva lei. Sapevo quando tornavano a trovare la famiglia e quindi, appena uscivo dall'ufficio, andavo diretta a casa loro e gli chiedevo di farmi degli autografi. Gli dicevo: «Mentre state seduti a guardare la TV, fatemi questo favore, firmatemi queste lettere». Insomma, una Margaret Thatcher del rock and roll, una Lady di Ferro. E siamo ormai alla metà degli anni 60, i Beatles sono all'apice del loro successo, quando Brian Epstein decide a questo punto che bisogna trasferire l'ufficio a Londra. E ovviamente Frida è la prima persona a cui lui chiede di trasferirsi. I knew I could go. Avrei potuto andare. Sapevo che mio padre non poteva impedirmelo, ma quando iniziai a pensarci seriamente, mi resi conto che non potevo farlo. Era un periodo in cui papà non stava bene e io non potevo abbandonarlo. Mi dissi: non posso andare. In fondo questo è solo un lavoro. Sono i Beatles, ma è anche solo un lavoro. E quindi diedi a Happy le mie dimissioni. I Beatles vengono a conoscenza delle dimissioni di Frida, non accettano la decisione, convincono Epstein a trovare un'altra soluzione. Viene deciso che Frida rimanga a Liverpool in un ufficio che in realtà è lì proprio per lei, gestisce il fan club e va a Londra solo una volta ogni tanto. Il piano funziona, tutto sembra proseguire come al solito. Però le cose non sono più come una volta. La fama dei Beatles ormai è immensa e non può non cambiare gli equilibri. Il primo a cedere sotto i colpi di questa notorietà planetaria è proprio lui, Brian Epstein. La sua non è una vita semplice, perché è costretto a nascondere la sua omosessualità, è affaticato dall'enormità di dover gestire un gruppo che ormai è famoso in mezzo mondo, è diventato una multinazionale i Beatles, e lui non ce la fa, trova sollievo nella droga, nell'alcol, finisce per soccombere. Nel agosto del 67 viene trovato morto nella sua camera da letto per un'overdose. Non si saprà mai se stiamo parlando di suicidio o di dosaggi sbagliati. E per Frida è una notizia terribile, e lei reagisce come molti fanno, cioè si concentra ancora di più sul suo lavoro, però l'organizzazione comincia a avere le prime crepe. Vuole che almeno la sua newsletter sia un punto fermo per tutti i fan. Insomma, continua a dispensare notizie semplici e rassicuranti. Dear Beatle people, cari fan dei Beatles, vogliamo ringraziarvi a uno per i regali che ci avete mandato in occasione del compleanno di John. John è stato felice di sapere che tutti voi ve ne siate ricordati. Paul McCartney in quella fase è quello che tenta disperatamente di tenere unito il gruppo, che tende a disgregarsi sotto i colpi dei progetti individuali di ogni componente della band. Dopo la morte di Epstein, Paul decide di organizzare il Magical Mystery Tour, che è un viaggio di 2 settimane che li porta in giro per l'Inghilterra in pullman. È un viaggio folle, chiassoso, scombinato. Frida partecipa, però in mezzo a tutta questa confusione non riesce più a trovare punti di contatto con i suoi ragazzi. Dopo una settimana lascia il tour e torna a Liverpool, sente che le cose stanno cambiando e non le piace. I loved the beginning part of it. Gli inizi furono bellissimi, all'inizio fu molto divertente. Ed era divertente anche per loro, gli piaceva molto. A tutti i gruppi piace entrare in classifica, avere dei dischi che diventano delle hit. È tutto molto eccitante. A chi non piace raggiungere il numero uno, essere invitati a corte dalla regina? Ma poi ti chiedi, quando finirà? Non si può andare avanti così. E per i Beatles la data di scadenza è vicina. Già da anni avevano deciso di non fare più concerti dal vivo, e nel 69 si trovano per l'ultima volta in studio a registrare un album vero, Let It Be, che verrà pubblicato nel 70. Però le registrazioni avvengono in un clima di litigi, ci sono molte sessioni in cui Paul McCartney suona quasi tutto delle sue canzoni, altre in cui Paul McCartney non c'è, c'è John Lennon. Insomma, è un album assolutamente sui generis, anche all'interno della produzione dei Beatles. In quel periodo un giornalista intervista Frida e il tono della sua risposta non lascia grandi speranze. L'atmosfera di oggi è simile a quella di 10 anni fa? No. Cosa c'è di diverso? La vicinanza. The closeness. Nel frattempo lei si è sposata, ha avuto un figlio, è in attesa di un altro. Insomma, capisce che non può più continuare a dedicare tutta se stessa al fan club di un gruppo che peraltro si sta disgregando, ucciso dagli eventi. Decide che è il momento di chiudere e si presenta con questa idea negli studi e negli uffici della Apple di Londra. Andai a Londra a parlare con Neil Aspinall, il capo di Apple, che era il loro tour manager. C'erano anche George e Richie. Eravamo tutti intorno a un tavolo e io gli dissi che ero di nuovo incinta. Mi chiesero se avevo intenzione di tornare dopo il parto e io risposi che sarebbe stato difficile, perché ormai avrei avuto 2 bambini. E allora, dopo un attimo di silenzio, George disse: Frida, tu eri con noi sin dall'inizio e sei qui alla fine. Chiudiamola qui. Chiudiamo il fan club. Let's call it a day. Let's end the fan club. Quando si conclude l'avventura con i Beatles, Frida ha solo 27 anni. Davanti a sé c'è la sua nuova vita, la sua seconda vita che la sta aspettando. Nell'ultimo Beatles Monthly, pubblicato nel dicembre del 69, dopo 10 anni, dopo migliaia di lettere, lei saluta i fan con un'ultima newsletter che si conclude con la frase: Please do not write again. Per favore, non scrivete più. In realtà le lettere arriveranno ancora per almeno 3 anni e a tutte Frida continuerà comunque a rispondere fino all'ultima. Anzi, regalerà ai fan tutto quello che ha raccolto nei lunghi anni di amicizia con i Beatles, ogni piccola reliquia che possa avere un significato per gli ammiratori. Se avesse voluto voluto, avrebbe potuto guadagnare una fortuna vendendo gli autografi che aveva accumulato, però il suo stile non era questo. Dalla fine dei Beatles, in tutti questi anni, Frieda non ha mai voluto raccontare la sua storia a nessuno, né ha pensato di tradire i segreti dei suoi amici scrivendo libri con confessioni sensazionali. Insomma, avrebbe potuto veramente monetizzare la sua fortuna, e invece ha dimostrato una volta in più di essere una persona con una grande dignità personale. Questo ce la fa amare ancora di più. Ci sono storie di persone che hanno saputo volare in alto, altre che hanno saputo volare assieme a quelli che pilotavano l'aereo. Ecco, Frieda è stata proprio questo, è stata una ragazza che si è trovata al centro della storia della musica, ma che ha saputo meritarsi questo privilegio con il suo lavoro, con il suo stile, con la sua grande discrezione. Ecco, se volete mandarci dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il microfono, i riflettori del nostro programma, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, oppure visitate la nostra pagina su radio24.it, oppure venite a cercarmi e a trovarmi nei miei e nei nostri social. Ciao, a domani.